si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare in diretta fino alle 10, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi dopo una pausa. Per quanto mi riguarda questi microfoni per qualche settimana a causa, sì, diciamolo, di una polmonite, il male invernale per eccellenza, ma mi sono ripreso, sto benissimo, tutto a posto, possiamo cominciare questa giornata insieme, questa mattinata insieme. Daremo come sempre un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie, e parleremo sì anche noi del tema delle case popolari, del bisogno di casa che c'è in Italia, della guerra tra poveri che si è innescata in queste settimane tra occupazioni abusive, spesso anche da parte di famiglie, donne con bambini. L'ultimo caso a Milano, una donna che durante uno sgombero ha denunciato due giorni fa alla polizia di dovuto abortire proprio a causa delle violenze subite durante queste percosse. Ma i medici dell'ospedale di Milano sono prudenti su questo caso. In ogni caso si tratta di una ferita aperta solo a Milano. Pensate, ci sono 10.000 casi popolari sfitte perché il comune non ha i soldi per ristrutturarle. In tutto questo noi cercheremo di trovare un po' di luce in fondo al tunnel, un sasso gestato nello stagno, una proposta da parte del direttore dell'Agenzia per i beni confiscati alle mafie, che propone e realizza di dare alcune di questi beni confiscati alle mafie, abitazioni, case, alloggi, insomma, proprio in dotazione a chi ha fatto domanda per le case popolari. E questo già iniziato a succedere soprattutto in alcune città del sud, Palermo in testa, dove di case confiscate ai mafiosi ce ne sono una buona notizia. Cercheremo di capire come e perché si può fare sempre di più. E poi nel pieno della settimana per la riduzione dei rifiuti in Europa, una settimana in cui si parlerà molto di questo, cercherà di capire anche come migliorare la gestione dei rifiuti in tutta l'Europa, andremo a scoprire una eccellenza italiana. Una delegazione da New York, pensate, è venuta a studiare il caso di come viene gestita a Monza, nella zona di Vimercate, la gestione dei rifiuti, con ben 25 tipologie di rifiuti riciclati e un livello di raccolta differenziata altissimo, tale appunto da aver suscitato l'interesse di una delegazione americana. Eccellenze italiane di cui spesso noi non siamo neanche a conoscenza. Tutto questo però dopo aver dato un'occhiata ai giornali di oggi. Vai, cominciamo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E vi ricordo anche i nostri contatti se volete interagire con noi in tempo reale, oltre alla pagina Facebook di si può fare trattino Radio 24. Siamo anche su Twitter, l'account del programma è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. E allora andiamo a vedere di cosa si occupa il giornale di oggi. Lo scontro tra Renzi e Landini, poi ancora sulla questione delle case popolari, ancora il post sentenza Eternit, e insomma adesso si comincia a parlare di quanto amianto c'è ancora in Italia, troppo, troppo da bonificare. La lettera del ministro Padoan dell'economia alle istituzioni europee. E per esempio invece il Corriere ha il titolo principale su questa notizia: il saluto di Napolitano al Papa, visita in Vaticano, più di un'ora di colloquio in vista dell'addio ufficiale. Francesco nella stessa giornata, che tra l'altro dice basta soldi per i sacramenti. Leggiamo: visita a sorpresa ieri a Santa Marta del presidente Napolitano a Francesco, un colloquio intenso durato più di un'ora. Si parla di un'atmosfera che conferma l'intensità e l'affabilità del rapporto personale tra il pontefice e il presidente. Sempre ieri il monito del Papa, abbastanza sorprendente, che dice basta soldi per messe e battesimi. Una usanza, un'abitudine, una convenzione, insomma, che c'è sempre stata, anche se il cardinal Bagnasco dice si tratta di offerte libere. Poi il Corriere, naturalmente l'altro titolo è le accuse di Landini, un caso politico, gli onesti contro Renzi, e poi si scusa. insomma, le frasi le avete sentite tutti, quando Landini ha detto che Renzi deve capire che non ha il consenso dei giovani che cercano lavoro e anche delle persone oneste, una frase che gli è sfuggita, lui stesso poi ha chiesto parzialmente scusa. La vignetta di Giannelli che dice così: un sondaggio sconfessa Landini, cioè un signore che guarda telegiornale e dice alla domanda tu sei onesto, il 41% ha risposto sì, il 59% ha risposto non so. E questa è la risposta all'italiana sul tema dell'onestà, secondo almeno Giannelli, in prima pagina del Corriere. La fotonotizia invece che c'è su alcuni giornali, il Corriere, la Stampa, è questa, è dedicata alla donna italiana che parte per lo spazio. Domani la partenza, Samantha verso la casa cosmica, è la prima italiana, seguitemi su Twitter, dice. Domani alle 22.01, seduta sulla poltrona di sinistra della navicella Soyuz, salirà rapida verso la stazione orbitale ISS. Per Samantha Cristoforetti inizierà così la missione futura, un soggiorno cosmico di 6 mesi. Orgoglio italiano, coraggio di questa donna e insomma le missioni nello spazio che vanno avanti. Restando sempre sul Corriere, l'altra notizia: i pediatri che mentivano sul latte materno, l'accusa inducevano ad usare quello in polvere in cambio di regali, e in 18 sono finiti agli arresti. Una inchiesta nata dalla procura di Pisa, reato ipotizzato dai magistrati è semplicemente corruzione, e così sono stati arrestati 12 medici pediatri, tra cui 2 primari e altre 6 persone, informatori scientifici, un dirigente di aziende di un'azienda specializzata in alimenti per l'infanzia. In pratica, insomma, inducevano le donne, avete sentito anche qui molti servizi in tutti i telegiornali, ad utilizzare il latte in polvere anche quando magari non era necessario. Questo poi è il punto anche discriminante, perché in tanti casi si rende necessario, e per fortuna che esiste il latte in polvere, in altri casi se c'è un interesse economico dietro da parte delle note grandissime case produttrici che operano nel campo dell'alimentazione per l'infanzia, e allora in questo caso sì, in cambio di regali ai medici che inducevano le donne a utilizzarlo, si configura il reato di corruzione. Vediamo anche qualche altro titolo, poi faremo qualche approfondimento, leggeremo un po' di interviste. Scontro Landini-Renzi, titola Repubblica: gli onesti non ti votano. E c'è anche la lettera di Matteo Renzi che risponde ad un editoriale di Repubblica sul tema di che cosa sia la sua sinistra. La mia sinistra non ha bisogno di esami del sangue, caro direttore. Repubblica mi chiama in causa, scrive Renzi personalmente, mi chiede quale sia la nostra idea di sinistra che rivendico, ad esempio quando parlo di riforma del lavoro. Ho sempre rivendicato con fierezza ed orgoglio l'appartenenza del Partito Democratico alla sinistra, senza trattino, cioè senza centrosinistra, alla sua storia, alla sua identità plurale, le sue culture e le sue radici. Stare dalla parte dei più deboli, dalla parte della speranza, della fiducia in un futuro che va costruito insieme. Inizia così questa lettera di Renzi, che poi cita Berlinguer, Mandela, ma anche La Pira, Dossetti, Kennedy, Gandhi. Dice però soprattutto è un futuro da costruire insieme per risolvere i problemi delle persone. Di qui comincia a dare delle risposte che vedremo più avanti nella seconda parte della rassegna stampa. Tra poco, dopo il traffico, approfondiremo questa lettera di Renzi su Repubblica, nella quale parla di che cosa vuol dire essere per lui oggi di sinistra. Andiamo sul Sole 24 Ore. A proposito delle parole di Draghi, che rilancia i mercati, rally sulla nuova liquidità, Milano più 3,9%, il presidente della Banca Centrale Europea, la bassa inflazione peggiora, ma siamo pronti ad ampliare l'acquisto di titoli, parole che appunto hanno dato un po' di lustro e di slancio ai mercati finanziari. Un'occhiata al Manifesto, a proposito delle parole di Landini, il quotidiano di sinistra, insomma quotidiano comunista ancora, che sta sicuramente dalla parte di Landini, però titola così: la nostra fiducia, come dire, che va sicuramente alla FIOM, però dice: una frase infelice di Landini accende la lunga coda di paglia del PD, e mentre Renzi abbraccia la Confindustria e viene contestato a Cosenza, decine di migliaia di operai, studenti, precari e comitati cittadini sfilano a Napoli in corteo con la FIOM contro il Jobs Act e la legge di stabilità. Ma l'incipit è questo: una frase infelice di Maurizio Landini, che ha parlato dell'Italia degli onesti che non seguirebbe Renzi. Gli altri titoli e gli altri approfondimenti tra poco, dopo la pausa per il traffico. Tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. Ed eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con Si può fare. Stiamo guardando ai giornali di oggi in edicola, prima di iniziare, dopo il GR delle 8, con il programma, i nostri approfondimenti, le buone notizie. Il giornale titola così: sinistra razzista, il vizietto rosso, Landini che dice Renzi non ha il consenso degli onesti, è il solito complesso di superiorità. E intanto, secondo il giornale, arriva l'ultima truffa da parte del governo, che toglie soldi al bonus bebè, ma li dà agli immigrati. Il riferimento è al bonus bebè, si ridimensiona forse la platea di chi lo riceverà, però c'è il tema della social card anche per gli immigrati, che è il tema anche di apertura della Padania. Social razzismo. Renzi nega la sospensione di tasse e contributi ai terremotati dell'Emilia Romagna, richiesta dalla Lega Nord, scrive la Padania, ma concede la social card agli immigrati, che vale 40 euro al mese. Salvini che commenta così: questo governo istiga al razzismo. Andiamo invece su un altro argomento, che è quello dell'amianto, che occupa la prima pagina del Fatto Quotidiano, in particolare sulla Rai. Amianto in viale Mazzini, bonifica solo per i VIP. Dopo la scandalosa sentenza Eternit scoppia la questione delle scorie per gli altri 8 siti più pericolosi. Clamoroso, nella sede della TV pubblica sono stati ripuliti 5 piani su 8. Il progetto di sicurezza del direttore generale Gubitosi è stato sospeso per il taglio dei 150 milioni stabilito dal decreto IRPEF del governo. Taglio alla Rai. Leggiamo: viale Mazzini, amianto sconfitto solo al piano dei super dirigenti, perché scrive il quotidiano, Fatto Quotidiano, che più si va in basso, meno bonifiche sono state fatte negli gli 8 piani del palazzo che ospita la Rai a viale Mazzini. Frasi che sarebbero confermate, cioè affermazioni che sarebbero confermate dalle frasi di Claudio Baldasseroni, segretario generale di uno dei sindacati dei lavoratori Rai. Poi c'è la mappa dei siti da bonificare in Italia, si va da Casale Monferrato, l'Eternit, famosa azienda dove ci sono ancora dei siti da bonificare, a Torino, a Balangero in particolare, la cava di Monte San Vittore, l'Eternit di Bagnoli, a Catania, a Biancavilla ci sono le cave di Monte Calvario, a Priolo in provincia di Siracusa sempre l'Eternit, e a siti ci sono anche a Bari, a Prato e a Broni in provincia di Pavia, dove c'è la Fibronit. Questo sul Fatto Quotidiano di oggi. Torniamo, anzi andiamo alla Stampa e vediamo il titolo principale dedicato alle parole del ministro dell'economia Padoan. La lettera in realtà scritta alle istituzioni europee. Padoan: nel 2015 ripresa fragile, per cui l'appello in qualche modo del ministro dell'economia, che torna a prendere carta e penna per scrivere a Bruxelles. Si tratta, scrive la Stampa, del tentativo di formalizzare i termini di una trattativa che per ora è molto politica e poco formale. Padoan ha preso ancora una volta carta e penna per rivolgersi ai nuovi titolari dei dossier conti pubblici a Bruxelles. L'analisi del ministro è brutale, l'ottimismo intatto. Sono fiducioso che lo sforzo senza precedenti del programma di riforme avrà chiaro appoggio dalle istituzioni europee. Il piano del governo è coerente con le raccomandazioni volte a aumentare competitività e crescita. I prossimi mesi saranno cruciale. La crescita però è ferma e insomma il ministro Padoan chiede a margini di manovra per poter andare avanti con questo piano di riforme in Italia. Torniamo su Repubblica, alla lettera di Matteo Renzi, che scrive a Repubblica, nella quale dice Renzi: ecco la mia sinistra, sto con i più deboli e non ho bisogno di esami del sangue. Penso che il modo più utile per difendere i diritti dei lavoratori sia quello di estenderli a chi ancora non ce li ha e di aprire le porte di uno spazio rimasto troppo chiuso per anni. Altrimenti qualcuno ci deve spiegare perché con l'articolo 18 abbiamo una disoccupazione a doppia cifra che cresce in questo paese, concetto già espresso altre volte da Renzi. Poi dice: noi poniamo il tema di un mondo che cambia, nel quale non possiamo permetterci di non dare tutela alle donne che non hanno garanzie, si aspettano un figlio, un mondo nel quale la selva di contratti precari deve essere disboscata e semplificata. Anche questi concetti già espressi. Se entriamo nel merito del Jobs Act, dice Renzi, vediamo che non c'è riforma più di sinistra. Quanto alla questione del dialogo con Berlusconi e Verdini, dice: a noi è chiara la differenza tra maggioranza e opposizione, così come ho chiaro che le regole del gioco si prova a cambiarle insieme per tornare poi a dividersi su tutto il resto. Per noi la sinistra è storia e valori, certo, è Berlinguer, Mandela, Dossetti, Langer, La Pira, Kennedy, Calamandrei e Gandhi, ma è soprattutto, dice Renzi, un futuro su cui lavorare insieme per risolvere i problemi delle persone. È questo il concetto renziano di sinistra, cioè un cantiere di lavoro nel quale si cerca di risolvere i problemi al di là delle appartenenze ideologiche, che lui riconferma, ma insomma del quale non si appassiona più di tanto. E va bene, per chi volesse tutto il resto dell'approfondimento della lettera di Renzi su Repubblica di oggi, che tra l'altro in prima pagina si occupa anche del tema delle case popolari. Milano, i giorni del fuoco, picchiata, ho perso il bimbo. Abbiamo già anticipato che cosa è successo: incinta, allo sgombero, perde il bimbo, colpa delle botte della polizia. Giovedì sera all'ospedale, una donna di 37 anni, romena, ha denunciato a medici e infermieri di essere stata picchiata dalla polizia durante lo sgombero al Corvetto, quando sono stati sgomberati due centri anarchici, Corvaccio e Rosa Nera. La donna ha già quattro figli, ha raccontato questa storia anche appunto a Repubblica TV. Poi però i medici ci vanno cauti, perché dicono nella segnalazione: i medici hanno riportato il racconto della donna, ma hanno anche sottolineato che la paziente non presentava segni evidenti di percosse. A fianco l'approfondimento: racket abusivi e nuovi poteri, la guerriglia per la casa che rischia di incendiare Milano. I numeri sono questi: ci sono 1278 tentativi di occupazione dall'inizio dell'anno, il 74% da parte di stranieri, il resto da parte di italiani. Sono 75.000 gli alloggi popolari assegnati a Milano, una città nella città, dove però ci sono 10.000 appartamenti sfitti perché non ci sono abbastanza soldi per ristrutturarli, e 22.000 famiglie che sono in attesa, in lista, e quindi c'è un forte, fortissimo bisogno di case a Milano. Milano che appunto si sta incendiando per questa questione degli alloggi popolari. Ne parleremo anche noi dopo il GR delle 8 con una buona notizia, speriamo, l'annuncio da parte del direttore dell'Agenzia per i beni confiscati alle mafie di assegnare alcune di queste case sequestrate alle mafie proprio a chi ha bisogno della casa popolare. Sta succedendo soprattutto in molte città del sud, Palermo in testa. GR, ci risentiamo subito dopo, apriremo anche il numero verde 800 24 0024, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Ed eccoci qua di nuovo in diretta, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno Alessio, bentornato. Siamo grazie felicissimi, Carlo, che tu sia di nuovo qua fra noi. Tu come stai? Io sto bene, mi sento un po' come quando tornano i genitori dopo un weekend. Infatti sto guardando il tavolo per vedere se abbiamo lasciato in giro qualche cosa, se c'è in giro una birra, una bambola gonfiabile, delle cose che non dovevamo fare in tua assenza. E sono molto contento poi che sia tornato il mio babbo radiofonico, diciamo, Alessio Maurizi. Addirittura babbo radiofonico, vabbè. Però devi sapere che devi tenermi adesso. Adesso, perché ormai alcuni rientri li faccio io. Ma diciamo, io guarda, sono tranquillo perché così mi riposo un po'. Sai, ancora non ho proprio, non sono a pieno ritmo dopo questa bella polmonite, certo, che mi ha accompagnato per le ultime tre settimane. Ah, finalmente possiamo dirlo che era polmonite. Sì, perché sì, in tua assenza abbiamo detto Ebola, in tua assenza abbiamo detto. Grazie per aver diffuso notizie rassicuranti sul mio conto. Anche alcune un po' definitive, perché ovviamente diciamo io ero qua che aspettavo la promozione. Mi aggiravo per i tavoli nella speranza di trovare il tuo cadavere. La definitiva, può dire così? Ho capito, fino a questo punto sei arrivato. Esatto. Io ho sentito, guarda, hai io sentito, ho sentito, con Tandia, sì, sì, siete stati bravissimi. Insomma, vabbè, per forza. Perché siete bravi. Però, ecco, un po' mi mancava, sono contento di essere tornato, l'ho detto, l'ho scritto su Twitter, mi sono preso la polmonite, male di stagione, che ci vuoi fare? Succede. Una botta pazzesca. Adesso però stiamo bene. Dai. Abbiamo imparato una cosa, che devi insegnarmi un sacco di cose, perché ci sono un sacco di cose che io ancora non so fare. Devo insegnare? Tante cose. Ho visto che, insomma, giustamente non sono in grado di farlo da solo. Solo, e quindi voglio imparare un sacco di cose e abbiamo tempo fino a giugno, dicembre, non mi ricordo il mio contratto. Quindi rinnoviamo, torniamo nella fase di stage. Un po' ritorniamo nella fase di stage, no, sì, dai. Devo fare un passo indietro per poi poterne fare due avanti, questa è la mia sensazione. Allora, caro Carlo, dimmi. Di cosa vogliamo parlare oggi? Intanto diamo il numero verde, 800 24 00 24, perché noi aspettiamo come sempre i vostri commenti, mettiamo le nostre proposte di buone notizie al vaglio degli ascoltatori. Dovete dirci se vi abbiamo convinto oppure no. Tra poco parleremo per esempio del fatto che il direttore dell'agenzia dei beni confiscati alle mafie vuol dare le case sequestrate ai mafiosi in alloggi popolari. Una bella notizia, un po' di luce in fondo al tunnel, vediamo se e come si riesce a fare questa cosa. Una qua. Brutta notizia per la mafia, possiamo dire, sì. Diciamo, che però non è una buona notizia. Tutti insomma. Cacchi loro, tutti esatto, cacchi loro. Siamo contenti. 800 24 00 24, poi giochiamo anche oggi naturalmente. Ho imparato anche a dire il numero, 800 24 00 24. Chiamateci per giocare con noi. Oggi te lo faccio dire sempre a te, guarda. Perfetto, che bello. Tu mi fai un però segno. Però non te lo dimenticare, io... perché sennò gli ascoltatori se non lo sentono poi si impediscono. Hai ragione. Potrei rischiare di dire il mio numero di telefono e quello sarebbe peggio, diciamo. Dipende, se ti interessa avere molti nuovi amici. Allora, con cosa giochiamo oggi? Si apre la settimana europea per la riduzione dei rifiuti e quindi insomma noi questo tema dei rifiuti ci sta a cuore, perché è un problema, dobbiamo cercare di risolverlo sempre meglio, sempre di più, e avremo un approfondimento anche su questo, un'eccellenza italiana a Vimercate, dove è stata anche una delegazione di New York per studiare come si fa la raccolta differenziata da quelle parti. A Vimercate. Quindi proprio una roba pazzesca. E vi chiediamo, cari ascoltatori, come fate voi? Cioè, per esempio, io prendo il flacone dello shampoo, lo giro gli ultimi giorni per farlo uscire tutto in modo da non sprecarlo. E poi lo sciacquo. Quindi non solo rifiuti, diciamo, anche gesti anche di profonda tirchieria. Beh, per esempio. Si può chiamare anche per dire gesti di profonda tirchieria. Si può dire. Che però sì. In realtà salvano il pianeta. Perché siamo, esatto. Quindi ne siamo a favore. Oppure, come ci aveva consigliato tempo fa la nostra Camilla Masala, fate i coriandoli con la carta di Natale, con quella che fa i pallini, e poi a febbraio ci fate ci giocate. Cioè tenete le carte di Natale e poi sì. Le tenete fino a febbraio o a seconda di quando cade Carnevale, perché la Pasqua è una festa mobile, poi vi mettete a fare tutti i vostri coriandolini. Quindi cioè, a volte bisogna mantenere la carta anche per mesi. Anche per mesi. Tu cosa giusto. Fai per i tuoi gesti di raccolta differenziata quotidiani quali sono? Tu fai la raccolta? Io sì, ho delle grosse difficoltà a capire dove vanno certe cose, cioè sono ancora in una fase in cui non so esattamente dove va il cartone della pizza. Anzi, a questo proposito, bella domanda. Cioè il cartone della pizza, il problema è che se è sporco di mozzarella va nella carta o non va nella carta? Devi pulirli gli oggetti, esatto, prima di metterli. Esatto. Sì, questa è un'altra infatti cosa c'è un pezzo fare. Sempre proprio su questa cosa dei cartoni nello spettacolo di cui ho parlato anche settimana scorsa, che è Amen, che adesso però finalmente ci siamo spostati a Roma e lo facciamo all'Ambra, alla Garbatella, oggi poi fino a domenica e tutta settimana prossima da giovedì a domenica. Lo spettacolo si chiama Amen, io l'ho scritto, in scena ci va Walter Leonardi. Bravissimo. E alle 21 di tutti questi giorni, di entrambi i weekend, diciamo, oggi questa settimana da giovedì a domenica, settimana prossima da giovedì a domenica. Quindi per riprendere il filo, cari ascoltatori, all'800 24 00 24 chiamateci e dateci le vostre risposte su come fate i vostri gesti quotidiani di raccolta differenziata dei rifiuti. Il racconto più originale, l'idea più bella, vince anche oggi i biglietti e il catalogo per la mostra di Chagall a Milano. Che facciamo? Cominciamo? Certo. Vai. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercandoti in zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa? A casa dov'è? Il buon Jovanotti per iniziare parlando di casa. Come abbiamo detto, diamo il buongiorno e il benvenuto a Umberto Postiglione, che è il direttore dell'Agenzia per i beni confiscati e sequestrati alle mafie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuto insieme a noi. Senta, quanti sono questi beni confiscati alla mafia che potrebbero, come lei ha proposto, speriamo che si possa fare, si è già iniziato in alcune città a farlo sempre di più, di dare in alloggi popolari, al bisogno di casa che in questi, insomma, anni di crisi si fa sentire sempre di più in tante delle nostre città? Cominciamo da questo dato. C'è un possibile quantificare questi beni? I beni sono stati confiscati a tutte le mafie, intendendo la mafia siciliana, l'Andrangheta, la Camorra, la Sacra Coronita e altre articolazioni, come ad esempio la Banda della Magliana a Roma. Insomma, sono tantissime. Complessivamente i beni ammontano a circa 12.000. Però? E ci sono ovviamente delle località nelle quali, per la presenza diciamo costante delle organizzazioni criminali, questi beni si sono accumulati in misura maggiore. Una di queste realtà è sicuramente Palermo. Nella provincia di Palermo ci sono più di 3.500 immobili che devono essere assegnati. Sì. Questi immobili vanno assegnati nel rispetto della normativa vigente, la quale indica dei fini che sono di competenza dello Stato, di competenza delle regioni, delle province e degli enti locali. Dico di competenza perché noi non decidiamo di darle. Se lo Stato, nella specie il demanio dello Stato, ritiene che ci siano delle esigenze per coprire bisogni di soggetti pubblici e che fanno capo allo Stato, allora noi lo diamo al demanio immobile e viene utilizzato, ad esempio, faccio qualche esempio, per istituirci una caserma dei carabinieri, sì, per alloggi di servizio per le forze dell'ordine. Certo, però è proprio ultimamente che anche grazie, mi scusi Postiglione, è proprio anche grazie alla sua iniziativa che si è cominciato a parlare di questo utilizzo invece per darlo a chi ha bisogno di una casa, perché normalmente si sono cercate funzionalità più nel campo pubblico, più sociale, ad associazioni che si occupano appunto di lotta alla mafia o, come diceva lei, anche a istituzioni. Invece lei ha proposto di fare un passo in più per andare proprio incontro a un bisogno concreto, stringente. Nella sostanza io ho proposto una integrazione delle disposizioni di legge in materia, perché fino ad oggi, utilizzando la normativa in vigore, abbiamo potuto fare fronte a un'esigenza degli enti pubblici, ma non specifica dei cittadini, come quella del diritto alla casa. Mi spiego meglio. Abbiamo dato al Comune di Palermo, ad esempio, sì, 50 alloggi di valore già in locazione, e con l'obbligo per il Comune di Palermo di destinare i proventi di queste locazioni, circa 500.000 euro all'anno, alla erogazione di buoni casa agli aventi titolo. Loro hanno delle graduatorie nelle quali sono inserite le persone che hanno redditi bassi e che non hanno la casa popolare, ma purtroppo, insomma, la devono trovare sul mercato in fitto. Allora, per integrare le risorse a disposizione di questi cittadini, noi abbiamo fatto questa operazione col comune di Palermo. Nel senso, e quindi ci può ricordare la cifra che avete stanziato in questo senso? Ha detto? No. Allora, questi, la locazione di questi appartamenti, sì, che abbiamo ceduto al comune, sì, di Palermo, produce ogni anno 500.000 euro. Beh, insomma, un bel aiuto, sì, allora, per chi, deve affittare una casa. Sono un numero contenuto di appartamenti. Ne abbiamo dati altri 28 per l'emergenza abitativa, che è cosa diversa dagli alloggi di edilizia economica e popolare. Sì. Quindi io ho fatto questa proposta anche con un altro scopo, perché quando si costituiscono le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, si tiene conto di una griglia di elementi, tra i quali il reddito, il numero dei componenti del nucleo familiare, gli sfratti. Quindi coloro che non hanno molte risorse a disposizione entrano nella graduatoria, però è noto che in certe zone esiste una criminalità diffusa, ormai un po' tutto il paese è interessato, e chi svolge attività criminale non dichiara reddito. Sì, quindi si rischia di darle poi proprio a chi... Non si rischia, si creano delle miscele, sì, concentrando in un unico territorio soggetti che hanno bisogno e soggetti che non hanno bisogno ma che fingono di averne. Ma c'è un modo per evitare che questo accada, Postino, che poi questo accade anche per tante altre cose, per la retta degli asili nido, per le tasse in generale, e per tutto quanto riguarda il fisco. Sì. Questa è una competenza di chi deve fare questi controlli. Io non faccio questi controlli, però io dico che se noi continuiamo a costituire dei grossi serbatoi con miscele sociali di questo tipo, sì, poi ci ritroviamo quelle cose che vediamo. Invece la soluzione che propone lei chiaramente rimescola le carte in tavola, perché non si creano, come dice lei, dei ghetti. La soluzione mia non è una soluzione definitiva. Finché avremo a disposizione in alcune zone come Palermo, Napoli, Reggio Calabria, tanto per citare qualche località. Ma per esempio a Milano ve ne sono? Perché a Milano c'è un particolare bisogno, sono 22.000 persone in lista d'attesa. Abbiamo visto il casino, mi permetta la parola, che è scoppiato in queste settimane. Sono stato proprio ieri a incontrare la Commissione Antimafia regionale insieme alla Commissione Antimafia del Comune di Milano e abbiamo discusso anche di questo. Certo, non c'è il numero di alloggi che troviamo a Palermo, ma qualcosa sicuramente si può fare anche a Milano, però c'è bisogno di una norma che estenda la possibilità di attribuire ai comuni o agli ACP, se esistono ancora, insomma, quelle abitazioni che vengono tolte alla criminalità e che possono essere usate in questa direzione. Una norma che deve essere emanata da Roma, dal governo e dal Parlamento, o una norma regionale? A chi dobbiamo farlo questo appello, Postiglione? No. Quelle sono le norme che affrontano i problemi, sì, di criminalità organizzata, questo è il codice antimafia, insomma, sostanzialmente. Quindi il Parlamento. Sono di competenza dello Stato. Perfetto. Io ne ho già parlato in commissione antimafia, certamente non è una soluzione che può andar bene, che so, per Bellamura. Insomma, è però un inizio quantomeno è una messa in efficienza anche di questo patrimonio edilizio, no? A buoni fini, Postiglione. Noi siamo con lei, naturalmente. Voglio sottolineare soltanto un aspetto estremamente importante. Quando noi andiamo a risolvere, almeno finché abbiamo questi immobili a disposizione, il problema in questa maniera, non andiamo a occupare nuovi terreni, non creiamo concentrazioni di persone con problemi economici e con i fermenti negativi in mezzo di alcuni criminali, e evitiamo la creazione di queste isole, insomma, che poi qualcuno alla fine chiama ghetti, isole di sottocultura della violenza, eccetera eccetera, perché questi alloggi sono sparsi e la integrazione dei cittadini che ricevono questi alloggi è estremamente più semplice e non c'è il rischio di questa contaminazione dovuta all'osservazione continua da parte dei poveri e delle disponibilità economiche che i delinquenti comunque manifestano. Va bene, insomma, grazie al prefetto Umberto Postiglione per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa grazie. Iniziativa, perché insomma di cavilli, di norme da superare o da, da scrivere ancora d'amblée, da zero, ce ne sono molti, e speriamo che questa proposta si faccia largo. Sarebbe davvero un piccolo, diciamo, aiuto a questo problema dell'alloggio in Italia, però insomma, speriamo. 800 24 00 24. Adesso ci fermiamo, tra poco sentiamo anche gli ascoltatori, vogliamo i vostri suggerimenti per come fate voi la raccolta differenziata o in generale sul riuso, diciamo, o sul riuso in generale in questa settimana per la riduzione dei rifiuti in Europa. Ci sentiamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Sentiamo qualche intervento. Prima ti dico solo una cosa rapidissima, che ci hanno risposto via Twitter alla questione dei cartoni della pizza, che ponevo come grande problema, e ci dicono: vi presento Vinny, un piatto di plastica che permette di salvare il cartone dall'unto, ovvero è una specie di piano in plastica da infilare dentro nel cartone della pizza, così che il cartone non si unga con la pizza, poi uno può riciclare il cartone, però poi deve riciclare anche la plastica. Non so se sia una grandissima idea, perché aggiungendo questo c'è un po' un accumulo, Si aggiunge un pezzo di plastica, che va bene che poi non mi si sporca il cartone, però poi devo riciclare pure il pezzo di plastica. Però comunque dice, 100% riciclabile, dice Vinny, 100% riciclabile, quindi forse questa è una plastica magari riciclabile. Sì, però credo, però va nella plastica, cioè, perché esiste questa plastica. In realtà esistono tutti dei piatti di cosiddetti piatti di plastica, che però sono fatti, se non sbaglio, in una fibra di mais, e vanno addirittura nell'umido perché si sciolgono. Esattamente. N'è parecchi. Sentiamo poi gli ascoltatori. Va, Rossana ci chiama dalla provincia di Siracusa, buongiorno. Buongiorno ragazzi, sono emozionatissima. Buongiorno. Bravissimi, bentornato Alessio. Grazie. Ciao Carlo. Ciao, grazie. Allora, io volevo parlare di una mia esperienza. Io ho 58 anni e ho vissuto, intanto parlo della Sicilia, però ho vissuto 20 anni in Veneto, dove dico sempre che sono stata formata come cittadina a fare la raccolta differenziata. Ma hai la voce di una ventenne, si può dire? Hai la voce di una ventenne, si può dire? Ma guarda, io sono senza voce, perché sono reduce da una settimana di formazione nelle scuole di Noto, che è un bellissimo posto in provincia di Siracusa, con i ragazzi, per cui sono assolutamente afona. Diciamo che forse ti dona questa con me. Sì, forse è per quello. Sì. Forse per quello, perché sembra che sei stata a un rave party tutta la notte e adesso questa è la voce che ti ritrovi. Infatti ragazzi, sono proprio, desideravo che arrivasse il sabato, perché non perdonami, ti ho interrotto. Ti ho interrotto. Riprendila quello che ci stavi raccontando. Scusate voi, e quindi insomma, formata a fare la raccolta differenziata, e poi io dico sempre: non tutto il Veneto è virtuoso, è proprio quella che io chiamo la banana virtuosa, da Vicenza, Bassano, Treviso e Bolzano. Io, ma cosa facevi di particolare? Sì? Guarda, come? Cosa facevi di particolare come raccolta differenziata? Ma guarda, io facevo di tutto, perché ci hanno abituato a differenziare in maniera molto spinta, perché dove abitavo lì a Vigo d'Azere, in provincia di Padova, si era arrivati, che poi fra l'altro è diventato il terzo comune più riciclone, si è arrivati a fare veramente la raccolta di porta a porta molto raffinata. Quindi ritornando poi a vivere in Sicilia, io stavo davvero male, perché anche a casa insomma dovevo ributtare di nuovo tutto insieme nel secchio della spazzatura. E poi, insomma, tra una cosa e l'altra, ho preso un diploma come tecnico di gestione dei rifiuti, e questa passione è diventata un lavoro, finalmente, tardissimo. E che lavoro è? Allora, sono molto fortunata, perché un'azienda che fa raccolta e trasporto rifiuti di Catania mi ha chiamato, mi ha detto che voleva potenziare lo staff comunicazione, e quindi mi stanno sguinzagliando in giro. E io però che cosa faccio? Perché lo facevo già prima come volontaria dell'associazione Rifiuti Zero, che è anche qua in Sicilia, di Rossano Ercolini. Sì, certo, conosciamo benissimo Rossano, nostro amico, sì. E io mi sono inventata la bancarella dei rifiuti. Quello che io facevo come associazione, in maniera volontaria, adesso lo vado facendo nelle scuole. Raccontacelo! E io mi porto dietro proprio la spazzatura differenziata e pulita, quella che io faccio a casa. E la vendi? Guarda, non proprio, però quasi. Perché il piano è geniale. Capire, Come? Il piano è geniale, dico, di andare fuori casa con la propria spazzatura e venderla, se uno ce la fa. Guarda, però in realtà potrebbe essere un'idea. Invece, che cosa fai? Formazione, cioè insegna ai ragazzi. Ma è un po' così, perché io faccio vedere proprio che ha un valore. Cioè, Carlo non ha detto una cosa tanto sbagliata. Sì, certo. Perché in effetti faccio vedere che ha un valore. E soprattutto adesso, che è la settimana europea di riduzione dei rifiuti, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Buono Scambio Gas, Eurodasti, dove noi facciamo vedere ai cittadini che portano la loro raccolta differenziata e pulita a un gazebo, un punto di incontro, che possiamo consentire loro di avere un buono che possono scambiare con degli esercizi commerciali che a loro volta certo, tutti. E questa è una buona pratica che si sta diffondendo sempre di più, ci piace. Grazie Rossana, grazie per il tuo racconto, per il tuo lavoro, per tutto quello che fai, per questo impegno. Vedete, è anche un modo per trovare un lavoro. Trovare un lavoro, questa certo. Direi che è la prima storia che ci viene raccontata, ma è una bellissima storia. Sì, direi assolutamente di sì. Traffico, poi ne sentiamo delle altre, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Note di Le Cornichon, questa celebre canzone francese, celebre, insomma, ironica canzone francese, che è tutto un elenco di cose da mangiare, molto divertente. Ah sì? Tu non conosci il francese? Poco, diciamo, è una canzone che piace a chi piacciono i cornicioni, è giusto? Certo, esattamente. vi portiamo a Scampia, cari ascoltatori. Cornichon, che credo che siano i cetriolini, credo che sia quello. Vi portiamo a Scampia, dove nasce Cicù, il primo ristorante italo-rom. Così come appunto in un piatto si fondono tutti i vari ingredienti per dare vita ad un gusto unico, così anche le differenze culturali, in questo caso, che spesso creano problemi, tensioni, lo sappiamo, nelle periferie italiane, qua a Scampia sono riusciti a fare una cosa che gli dà gusto, piacere. Ne parliamo con un valore aggiunto Barbara Pierro, che è referente del progetto La Cumpania, che gestisce il ristorante CQ. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come nasce questa idea di un ristorante di donne, tutte donne, no? Tutte donne, sì. La maggioranza italiane e rom. La maggioranza vuol dire non tutte, allora. Ci sarà anche qualche maschietto, va? C'è un cuoco. Ah, va bene. Lo chef alla fine è un maschio. Il lavoro grosso l'ho fatto fare a un maschio, è giusto, brave. No, non esattamente. Come nasce questa idea? Sì, nasce perché l'associazione che ha messo in piedi questo progetto, oggi impresa sociale, esiste a Scampia da oltre 12 anni, lavorando a stretto contatto con la comunità lì residente, che è una comunità rom e napoletana, quasi da quando è nato il quartiere stesso, che è un quartiere relativamente giovane. E pertanto ho visto due comunità che vi sono andate ad insediarsi, una perché fuggiva dall'ex Jugoslavia intorno agli anni 80 per le prime avvisaglie di guerra, l'altra, quella napoletana, perché in seguito al terremoto, per la ricerca di case e come espansione naturale della città, Scampia si presentava come un quartiere che poteva offrire questa domanda di abitazione. Insomma, avete messo insieme queste due comunità? Sì, lavorando insieme, abbiamo avuto una baracca in un campo per oltre 10 anni, lavorando a stretto contatto con bambini, adolescenti e famiglie, e a un certo punto all'interno di questi percorsi culturali che svolgevamo, educativi, artistici, ci siamo resi conto di come l'emancipazione sia un processo trasversale che ha a che fare anche con i processi economici. Pertanto ci siamo sforzati di capire come potevano essere messi in piedi dei processi economici che in qualche modo coniugassero e completassero questa emancipazione culturale, e così quasi per caso loro, le donne, cucinando in occasione di feste, sì, compleanni, giornate, così ci accorgevamo che cucinavano, che funzionava, bene, che veniva bene, che funzionava, sì, che perché la cucina, sì, era un elemento, uno strumento in grado di superare qualsiasi discriminazione a qualsiasi livello. Ma cosa si mangia di buono? Scusa, io sono lo stupido dei due, però sì, che cos'è un piatto tipico rom? Un piatto tipico rom è un piatto tipico balcanico, perché loro provengono dalla Serbia e dai Balcani. Quindi sì, però sono nomadi, quindi... No, nomadi non sono, questo sfatiamo questo mito. Ah. I nomadi, diciamo, sono quelli forse delle tribù africane, se ancora si muovono all'interno del deserto. Loro erano stanziali nella ex Jugoslavia, perché sotto le grandi... Vabbè, ma raccontaci il piatto, dai, esatto, raccontaci il piatto, che siamo curiosi. Va bene. No, è importante però, perché... No, assolutamente, assolutamente. Ma si giustificano spostamenti vari, invece queste sono comunità stanziali da sempre. Io lo comunque, dicevo come cosa bella il nomadismo, ma comunque, sì, a posto. Dici magari, il piatto tipico. Piatto tipico, moussaka, gibanitz, sarme, involtini, cioè di verza, ripieni di carne macinata, riso. Gibanitz è una sfoglia sottilissima che può essere sia salata che dolce, fatta con le mele, le noci, oppure con la zucca e con la ricotta. E ci sono il goulash, un altro piatto fortissimo che loro propongono. Calcola che sono le 9 e io mi sta già venendo fame, quindi anche se questo il goulash sarebbe un po' impegnativo, ma però tutto il resto si può fare. Purtroppo non abbiamo più molto tempo, Barbara. Beh, noi ti ringraziamo, vi facciamo in bocca al lupo per questa attività. Da quanto tempo siete nel quartiere a Scampia? Da oltre 12 anni. Beh, abbiamo aperto TQ però da pochi giorni. Quindi insomma, presto per fare un bilancio. In bocca al lupo, buon lavoro con il ristorante CQ Italo Rom a Scampia. Una bella storia, ci risentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. A dopo, ciao. Si può fare cronache da un paese migliore. I was chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. Was aching to be somewhere near. Your voice was all I had. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dark, just wishing to be blinded by you, brand new, and we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred, heard a sound that made some sense out of the world. Questa è The Miracle degli U2, che è il nostro Si può fare in musica, canzone scelta e proposta dal nostro ascoltatore Eugenio Lizzi, che ringraziamo. Grazie. Ormai questo è il mio momento, quindi questo rientro ormai mi appartiene di diritto. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono inviarci il loro Si può fare in musica, che poi noi sceglieremo e faremo ascoltare durante la trasmissione. Lo possono come fare. Sempre tu, faremo il CD. Esatto, e poi faremo. Per perfetto. Ci siamo scambiati i ruoli, è perfetta, esatto, questa cosa. È il nostro Si può fare in musica, che potete ovviamente sia sui nostri social annunciarcelo, oppure sui nostri account Twitter privati. Il mio è @CarloGabardini, e se no c'è quello di Alessio Maurizi, che è @AleMaurizzi. Benissimo. Oppure Si può fare, ovviamente, sì, 24. Quello del programma. Vogliamo leggere qualcosa che è arrivato su Twitter, perché insomma si è mosso un po' sia sulla questione rifiuti, certo, sia anche sulla questione del ristorante assolutamente. Italo Roma Scampia. Prima ti leggo un sms di, sulla questione della pizza di qualcuno che dice: sveglia, la plastica si lava, il cartone no. Perché giustamente io dicevo, certo, capito, ma questa cosa di plastica, sì, devo anche dire che però io che cosa me ne faccio di 45 sottopiatti per pizza, anche se li lavo e poi dopo in casa cosa faccio? Magno su della plasticona gigante? Tonio Monda, che ritwittiamo su Twitter, ci linka un video per sapere tutto su Vinny, il contenitore appunto per la pizza riciclabile al 100%, l'ho appena ritwittato. Poi abbiamo anche chi ironizza sul ristorante CQ a Scampia con delle battutacce da donne italiane in Roma, dicendo come si chiama al borseggio. Ma non parliamo di quei rom che sono stati zingari, così, cioè parliamo di persone che sono di etnia rom, ma inserite, che fanno una vita, persone normali, non tutti i rom sono in quel modo lì. Insomma. Esatto, e però è apprezzabile il fatto che chissà se l'ha fatto volontariamente. Al Borseggio, nel senso di Al come nome, come Al Pacino, questo è Al Borseggio, è un nome, esatto, cognome, ovviamente. Esatto, poi ci sono altre cose, vabbè, le vediamo tra poco. Cominciamo, anzi, riprendiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Maria che ci chiama da Lecco. Buongiorno, Maria. Buongiorno. Sono Mara. Ah, scusa, Mara, benvenuta, sì, sì, Mara. Sì, sì. È che ti abbiamo tenuto in attesa e nel frattempo hai vinto nome. Una I. Grazie. Allora, io lavoro per una scuola, un corso di formazione professionale. Sì. E in questo periodo pre-natalizio stiamo praticamente con i ragazzi raccogliendo qualsiasi tipo di materiale che non viene più utilizzato a casa, come i tappi di sughero, le bottiglie di plastica, i vasetti della marmellata, qualsiasi cosa che viene portato dai ragazzi e viene riutilizzato per creare delle decorazioni natalizie. Utilizziamo ma proprio di tutto, anche i pezzetti di legno di scarto, e tutto diventa un prodotto proprio per Natale. Immagino che i ragazzi si divertono molto a fare questo, sì, gioco del recupero. Esatto, che poi è un laboratorio che comunque andrà avanti tutto l'anno, perché con le cassette della frutta, ad esempio, che raccogliamo, sì, in giro tra i vari fruttiventoli che butteremo, creiamo una serie di arredamento. Ecco, perché al di là della questione delle decorazioni di Natale, che pure è una cosa simpatica e divertente, si riesce a fare anche degli oggetti magari di piccola utilità con questi... Sì, si riesce, ad esempio adesso abbiamo questo progetto delle cassette della frutta che, sì, verranno ricarteggiate, ridipinte, quindi i ragazzi lavoreranno poi con questo materiale, con il impareranno delle nuove tecniche e verranno utilizzate per creare appunto come dei complementi d'arredo, sì, librerie dove appoggiare utensili, oggetti, portavasi, eccetera. Quindi andiamo proprio alla ricerca, bene, di quello che verrebbe buttato. Complimenti Mara grazie. D'Alecco, grazie. Sì, anche, grazie anche lei si candida per vincere i biglietti e il catalogo della mostra di Chagall. Ricordiamo il numero che è 800 24 00 24. E andiamo con Antonello che chiama da Modena. Antonello, sì, buongiorno. Pronto? Sì, sono in linea? Sì, buongiorno. Sì, ok, buongiorno. Io volevo raccontare una piccola cosa, magari non è interessantissima come le altre, però io ve la racconto. Ma dove sei? Dove sei intanto? Che sentiamo dei rumori tipo un treno che ti sta arrivando addosso. No, sono a lavoro, adesso mi sposto, ecco. Va bene. Guarda, eccomi, adesso mi sono spostato. Ma dove lavori, Antonello? In una falegnameria? Sentiamo dei rumori tipo di... No, è una ditta dove fanno dei trattamenti termici sottovuoto, okay, altissima, okay, insomma. Niente, volevo raccontare solo questa cosa. Io abito a Modena da 30 anni, a Modena si fa, cioè pulita, a Modena tutto, raccolta differenziata da tantissimo tempo, però la raccolta differenziata è ancora libera. In che senso? Nel senso che non si fa la raccolta porta a porta e fin lì nessun problema. Io mi stupisco tutte le volte quando torno al mio paese, io sono sardo, quando torno al mio paesello natio San Nicolò d'Arcidano, arrivo là e loro di una cosa vanno orgogliosissimi: per 3 anni hanno vinto il come comune più riciclone d'Italia, cioè, allora, complimenti. Ma in che modo? Sì, ma loro fanno la raccolta porta a porta, hanno tirato via tutti i cassonetti. Tu vai al mio paesello, non è granché, però non c'è nessun cassonetto fuori, sì, e niente, tutto fanno loro la raccolta porta a porta. Ma invece, cosa... scusami Antonella, a Modena invece ci sono i cassonetti o viene, sì, fatta nei condomini? No, ce li abbiamo ancora i cassonetti. E okay, quali preferisci delle due raccolte, tu che le conosci entrambe? Ma forse la porta a porta è la più precisa, è la migliore forse. E passano, cosa passano? Due volte a settimana, tre, o tutti i giorni? Non, come funziona? Non lo so, sai quanto non ti passano. Ricordi. Sinceramente non lo so, perché comunque, io vado in comunque giusto, è vero, d'estate. Antonello, sappiamo che la raccolta porta a porta è quella, diciamo, in generale che consente una efficacia maggiore. Cioè la, stavi dicendo che porta che, a bravo, risultati migliori. Ho cercato il sinonimo. E quindi è vero, bisognerebbe poi vedere anche i livelli proprio di raccolta differenziata in termini percentuali. Però se mi dici che il tuo paese in Sardegna, Natio, ha vinto per tre volte come comune riciclone, sicuramente saranno oltre il 60%. Modena non lo so. Antonello, hai qualche suggerimento in particolare da darci per fare la raccolta differenziata? No, se permettete, volevo solo raccontare un piccolissimo aneddoto. Sì. Voglio dire, io vado quando, anni fa, arrivo giù in Sardegna, piatti di plastica butto nella plastica. Nella plastica. Mio suocero, 91 anni, cioè ragazzi, 91 anni, mi guarda e dice, beh, cosa fai là? Anche perché il suocero... Io ho detto, no, ti faccio vedere io, gli dai una lavata e dopo la butta nella plastica, dopo che li ha lavati. Certo, è vero, bisogna sempre lavare le cose di plastica, perché se restano con lo sporco sono meno riciclabili. Beh, quindi... è un bel insegnamento, i 91enni diciamo che fanno meglio di noi. Poi Antonello, il suocero non perde occasione per metterti in difficoltà, questo è ovvio, per qualunque motivo. Grazie per averci chiamato. Buona giornata, buon sabato. 800 24 00 24, altri racconti tra poco dopo il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Three, it's a magic number. Yes it is. It's a magic number, because two times three is six, and three times six is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got three R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where is it? It's a magic number. Allora, prima ancora di annunciarlo, c'è il tweet, credo, della sorella di Enzo Favoino, della scuola agraria Parco di Monza, che twitta così: il fratellone Enzo Favoino a Si può fare con Ale Maurizio e Carlo Gabardini, spero per voi non in sede, se no vi controlla i cestini. Beh, è la miglior presentazione di sempre, direi. Assolutamente. Allora, ringraziamo Maria Eva Favoino e adesso parliamo con suo fratello. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di aver messo Jack Johnson per introdurmi. Il Recycle è uno dei nostri inni, bravi. È un mantra. Pensavo che ringraziassi per aver letto il tweet di tua sorella. Ci confermi che è tua sorella o è una che mi lanta parecchio? Non è un fake, a mezzo radio le dico che poi passerò a controllare i suoi. No, i suoi. Non sono da voi in sede, bello. A controllare i suoi cestini adesi oggi. Questa faida familiare sul rifiuto ci piace moltissimo. No, è una gara virtuosa, non è una faida. Giusto, esatto, bravo. Esatto. Allora, io ho letto questo titolo qualche giorno fa sulla cronaca locale, credo fosse Corriere: raccolta della spazzatura, adesso anche New York copia il modello Brianza. Ora, io ne sapevo qualche cosa, conosco per esempio Paul Connett, che è l'amico di Rossano Ercolini, il professore universitario americano che va girando l'Italia e il mondo per spiegare come si possa arrivare a rifiuti zero, è venuto da voi eccetera, ma è venuta anche una delegazione proprio di New York a studiare il modello CEM, il modello Brianzolo. No, in realtà è stato il contrario. New York ci ha invitato, è stato a settembre e siamo andati lì perché loro hanno il programma di estendere la raccolta differenziata porta a porta, in particolare dell'organico, che già attualmente serve 200.000 abitanti nella zona di Brooklyn, ma zona villette più che altro. Volendo aggredire la parte di Manhattan, quella con la sviluppo verticale di abitazioni, i classici palazzoni da film americani, hanno preso a riferimento quello che hanno saputo, perché alcuni loro tecnici sono stati a Milano a giugno. Milano attualmente è la più grande città al mondo che serve il 100% della popolazione con la raccolta separata dello scarto di cucina ed è quindi un modello di riferimento. Ma Milano è un'altra delle declinazioni possibili di un modello che venne sostanzialmente implementato all'inizio degli anni 90 nella zona dell'Est Milano. Quando ancora non si parlava sostanzialmente molto di rifiuti, se non in pochi casi. Quando vi potete immaginare quanti ci hanno dato dei pazzi. Invece sì. Abbiamo dimostrato che gli italiani, proprio nello spirito della vostra trasmissione, quando si mettono a fare le cose le sanno fare meglio di chiunque altro. Bene, è vero, è vero. E scoprire, tra l'altro, queste eccellenze così per caso, guardando il titolo di un giornale, a volte fa anche quasi rabbia, perché dice, ma com'è possibile che non se ne parli, che non lo sappia nessuno? Tra la rabbia e l'orgoglio, diciamo. La rabbia e l'orgoglio, l'orgoglio. Bravi. Sicuramente. Come è iniziato tutto nel 1993? Tutto inizia nel comune di Bellusco, forse? Proprio quello? Sì, Bellusco è stato il primo a codificare e consolidare questo modello operativo, il cosiddetto porta a porta. Tra l'altro ho ascoltato Antonello, il sardo modenese, con attenzione. Sì. E lì c'erano tante cose importanti nel suo intervento, perché oggettivamente a 20 anni di distanza dall'inizio del porta a porta abbiamo tutte le evidenze statistiche, scientifiche, tecniche, operative che il porta a porta funziona meglio sotto tutti i profili, di quantità, qualità e addirittura i costi della raccolta differenziata, che paradossalmente vengono alla fine ad essere inferiori perché minimizzo gli smaltimenti e posso integrare operativamente il sistema. E come mai non viene attuato in tutte le città, tipo a Modena appunto? Beh, diciamo che ci sono quelle viscosità, attriti operativi come li chiamiamo noi tecnici, cioè ci sono tradizioni operative consolidate, oppure semplicemente il fatto che gli investimenti nel passato sono stati fatti nella direzione dei cassonetti. Ora bisogna aspettare che i cassonetti arrugginiscano. Cioè, scusa, io appunto traduco e brutalizzo, sono stati spesi dei soldi per fare dei nuovi cassonetti, eccetera, eccetera. Adesso le aziende che gestiscono i rifiuti di queste città non possono smentire se stesse, cambiare tutto, fare un investimento nuovo, perché devono prima ammortizzare quello. Esattamente. Cioè, l'importante è diffondere consapevolezza, e lo facciamo quotidianamente, anche oggi grazie a voi lo stiamo facendo. Però al di là dei numeri, che già oggi ci dicono che più del 50% della popolazione nazionale adotta il porta a porta, più del 50%. Accidenti, non pensavo, credevo molto meno. Sì, no, ma la tendenza è chiarissima, la tendenza è chiarissima e sta aumentando il numero di comuni. Senti, ma quali sono, diciamo, i vantaggi della raccolta porta a porta, che si riesce credo a fare una raccolta differenziata maggiore per il cittadino? Quali sono i vantaggi? Beh, che il servizio viene portato all'uscio. Poi intendiamoci, c'è il piccolo disagio del fatto che la raccolta è calendarizzata, quindi uno si deve abituare a bisogna ricordarsi di tirar certo, fuori che il giovedì esce l'umido. Noi però poi sappiamo, da quelli che sono gli strumenti che ci consentono di tradurre scientificamente le reazioni, le percezioni dell'utenza, si chiamano indagini di soddisfazione dell'utenza, che mediamente tra l'80 e il 90% della popolazione esprime consenso al porta a porta. C'è un'area di disagio che tipicamente e statisticamente tra il 5 e il 10%, anche la recente indagine a Milano ci ha dato questa risposta. È importante ascoltarli per capire quali sono i problemi specifici e vedere di risolverli, ma la stragrande maggioranza della popolazione è contenta e condivide e partecipa al porta a porta. E invece per diciamo l'azienda pubblica o privata che deve realizzare il porta a porta, qual è, hai detto, la difficoltà quella di fare, diciamo, un investimento economico, ma ha un costo particolare più alto? Cioè, no, guardi, allora ormai ci sono tutte le evidenze del fatto che le zone dove si applica il porta a porta sono quelle che trasferiscono il minor costo complessivo dei servizi di igiene urbana all'utenza. Io cito semplicemente l'ultimo, solo in ordine di tempo, tra i casi clamorosi, la città di Treviso, il capoluogo. Treviso ha recentemente raggiunto gli altri 50 comuni di più della metà della sua provincia e del consorzio Contarina, applicando il modello del porta a porta che Contarina ha portato alle sue massime prestazioni. E Treviso ha avuto da subito l'86% di raccolta differenziata, ha ridotto il rifiuto residuo, perché questa è la cosa importante al di là delle percentuali, a 67 kg abitante anno, ha creato più di 30 nuovi posti di lavoro, spostando quello che era un costo di smaltimento d'uso dell'ambiente, d'uso del capitale, verso una remunerazione di posti di lavoro, ma soprattutto ha ridotto di 10 euro abitante anno il costo medio trasferito all'utenza, proprio perché minimizzano gli smaltimenti e si possono avere integrazioni operative tipo la riduzione delle frequenze di raccolta. Ecco, ma come avviene questa cosa? Chiedo scusa, io sono lo stupido dei due, però volevo capire questa cosa. Quando è che avviene che effettivamente per l'utente c'è un abbassamento dei costi? Perché ho la sensazione che se lo vedessimo realmente sulle nostre bollette saremmo tutti molto più invogliati a farlo, però io non ho capito come avviene questo meccanismo. No, questo è indubbio. Poi attenzione, c'è una distorsione di valutazione, perché ognuno di noi tende a fare a paragone con quello che pagava 5 anni fa. ma il paragone non deve essere oggi con ieri, ma quello che costa oggi con quello che sarebbe costato se non avessimo fatto niente, però, oppure quello che costa nei comuni accanto, è difficile. Che continuano a usare il La domanda di Carlo credo che sia cioè, centrata su un punto. Non tutti i comuni però applicano queste tariffe, perché in molti comuni, che tu la faccia o che tu non la faccia, la raccolta differenziata non se ne accorge nessuno, e non ci sono tariffe differenziate. E non ci sono premi soprattutto. Questo è un altro tema, cioè quello dei meccanismi premiali e punitivi, la tariffazione puntuale. Molti dei comuni che adottano il porta a porta adottano poi anche la tariffazione puntuale. Che ma secondo te ci vuole una legge nazionale, qualche cosa, oppure bisogna aspettare che i comuni piano piano ci arrivino? C'è già la legge nazionale che consente di farlo e ci sono già le disposizioni europee che dicono che bisogna andare in quella direzione. In Italia già 1400 comuni adottano la tariffazione puntuale, non sono pochi, quasi il 20%. È che bisogna saperlo. Però tornando all'elemento fondamentale, voi mi chiedevate, ma se ne accorgono poi i cittadini? Sì. Un anno col successivo in genere se ne accorgono, con l'introduzione del porta a porta ci sono risparmi. Anche a Milano l'introduzione dell'ultimo passo, che è stata la raccolta differenziata dell'umido, ha comportato dei risparmi. Poi questo ancora non può essere trasferito ai cittadini perché esiste una però bisogna farlo, e anche con urgenza secondo me, perché ha ragione Carlo. Prima i cittadini se ne accorgono, prima saranno disposti a collaborare. Ti vorrei chiedere un'altra cosa però. È vero che i 49 comuni che aderiscono, diciamo, a quel distretto, al vostro distretto... Contarina. Esatto, nel quale si fa questa raccolta differenziata spinta e si insegna agli americani. Si insegna agli americani, raccolgono fino a 25 tipi diversi di rifiuti. Ah sì, forse questa è una. Cioè, ma molti di più di quelli che si fanno normalmente. Per esempio, cose che in molti comuni non si recuperano. Però attenzione, perché poi altrimenti mia sorella si fa prendere un coccolone per il fatto che devo andare a vedere le 25 frazioni di materiale che tiene in casa. No. Attenzione, alcune tipologie, quelle fondamentali, che sono l'organico, il rifiuto residuo, la carta, in genere, sempre quelle. La plastica e la lattina vengono raccolte a domicilio, le altre vengono raccolte in piattaforma ecologica, cioè al centro comunale di raccolta. Ah, sono poi le isole ecologiche che provvedono a creare questi 25 punti. È un elemento importante che va a complementare il sistema porta a porta, anche perché serve a dare informazioni ai cittadini, a dare i sacchetti biodegradabili quando gli stessi si esauriscono, nel caso che vengano distribuiti dal comune, eccetera, eccetera. Un'altra domanda un po' tecnica, che una cosa che ho capito, credo forse, in questi anni cercando di interessarmi a questo tema dei rifiuti, è questo. Secondo te i comuni sono pagati abbastanza per le materie prime che conferiscono, non so, a chi quando le vendono i rifiuti, c'è la plastica, la carta, il cartone, cioè ai comuni conviene davvero fare la raccolta differenziata perché intascano, oppure non è abbastanza vantaggioso come forse avviene in altri paesi? Questa domanda è intrigante, quante settimane ho per rispondere? No, vediamo di riassumere. Una. Allora, no, la discussione c'è su questo. Anche perché la legge nazionale dice che il Consorzio Nazionale Imballaggi, CONAI, deve riconoscere ai comuni per le frazioni differenziate l'extra costo della raccolta differenziata. Dicendo extra costo è chiaro che a uno viene subito in mente di calcolare il differenziale rispetto alla raccolta non differenziata. In realtà all'estero spesso si deve coprire l'integrale del costo della gestione di quel materiale, cioè tutta la raccolta più i passaggi successivi di riciclaggio. Ma nonostante questo, nonostante in Italia i contributi siano inferiori rispetto a quello che viene riconosciuto ad esempio in Germania, però c'è comunque una convenienza per i comuni, perché anziché affrontare un costo di smaltimento hanno un introito, che sia basso, che sia medio, che sia alto, è comunque un introito. È sempre e questa un è una componente essenziale di quel risparmio complessivo che citavamo prima. Bene, mi sembra che... Ci scrivono su Twitter, M. Tasinato, che ci dice differenziata totale sì, porta a porta no, sto in un micro mini, che credo che intenda sto in un appartamento molto piccolo, e avrei la casa piena di puzze. Cosa rispondiamo? No, che i volumi totali di cui si deve occupare il nostro amico rimangono uguali, semplicemente vengono separati in diversi flussi. Però magari in chi ha la casa piccola, forse avere 4-5 è l'umido, ceste, è l'umido che mette ansia a tutti, avere il sacchetto con dentro la patata avanzata allora, nel piatto del nonno. Intendiamoci, avendo diverse esperienze, incluse grandi città che fanno queste cose dove nessuno pensava fosse ipotizzabile e viene fatto, si può rispondere questo. La casa piccola in genere è un appartamento all'interno di un condominio, Allora, i condomini hanno degli spazi comuni dove il bidone dell'umido può essere posizionato, cioè il portaporta in quel caso viene declinato con un bidone collettivo. Nel mio condomino c'è, in altri magari no, questo ascoltatore forse è più sfortunato. No, ma nei condomini non viene chiesto di mantenere all'interno dell'uscio, all'interno dello stabile sì. No, ma bisogna vedere comuni. Enzo se in tutti i condomini c'è effettivamente, e non c'è in tutti i condomini. Infatti, lo spazio per con i cassoni. Interviene la declinazione diversa del portaporta, perché già ad esempio a Milano e Torino funziona leggermente in maniera diversa, perché a Milano ci sono i vani rifiuti, a Torino ci sono i cortili interni e ci sono le declinazioni specifiche. Noi adesso lo stiamo esportando a Sofia non c'è né l'uno né l'altro, ma ci sono gli spazi esterni, si fa una piccola gabbietta e si tengono lì i bidoni condominiali. Grazie mille, grazie Enzo Favuino della Scuola di Agraria Parco di Monza, nonché responsabile scientifico, ricordiamolo, di Zero Waste Europe. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Complimenti. E stiamo all'interno della settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Siamo partiti così oggi e su questo anche chiamiamo a raccolta, gli ascoltatori, insomma, abbiamo già avuto un po' di suggerimenti utili, continuate a chiamarci, tra poco sentiremo altri interventi all'800 24 0024, si vincono i biglietti per la mostra di Chagall e anche il catalogo, A tra poco. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua con Dario che ci chiama dalla provincia di Catania. Buongiorno Dario. Buongiorno. Buongiorno. Io ho trovato a casa delle lastre radiologiche risalenti a 30 a 35 anni fa, inutilizzabili praticamente. Ho chiesto a dei vertici studi radiologici quale fosse il metodo migliore per smaltire queste lastre radiologiche e con sorpresa nessuno ha saputo rispondermi. Cioè non si sa se vanno nella plastica, se vanno nell'indifferenziato. Nei rifiuti speciali, nessuno studio radiologico, eppure gli studi avranno sicuramente dei rifiuti di lastre venute male, no? Di sicuro. Dove buttano queste lastre? Allora facciamo un appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se c'è qualcuno che lavora in uno studio radiologico che è più informato di quelli che sono stati consultati da Dario a Catania su ci come chiami. Si riciclano le lastre radiologiche, potrebbe essere una curiosità così da diffondere. Beh, se sono lastre radiologiche molto buone, secondo me si possono usare da dare a chi fa gli esami, così uno se ne va a casa con una lastra bellissima che dice lei non guarda ha assolutamente che niente. Bel ginocchio che esatto. Hai senza un guasto. Va bene, grazie Dario, questa era una curiosità, le lastre. Andrea da Ferrara. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io invece volevo essere un po' l'opposizione di questi bei ragionamenti, sì. Perché guardo con sospetto un grande business che viene camuffato con un bel moralismo e una bella filosofia. Sentiamo. Beh, quale sarebbe il business e qual è il moralismo? Allora, io credo che comunque le società che raccolgono rifiuti poi a sua volta vendono questa enorme quantità di plastica, di tutti i rifiuti riciclati e quant'altro, e comunque abbiano i loro bei guadagni. Per il cittadino, io ho un appartamento di 120 metri, pago 1000 euro all'anno di rifiuti, ridare indietro al cittadino 10 euro mi sembra veramente poco. Ma 10 euro al mese però mi sembrava che si parlasse, no? Il collega dice, il signore di prima parlava 10 euro all'anno. Ah, beh, sì. 10 euro all'anno, comunque, effettivamente. Guardi, è vero che, lo abbiamo già detto, che queste tariffe incentivanti, questi sconti sulla tassa sui rifiuti vanno aumentati, devono essere evidenti il cittadino, cioè bisogna arrivare a dimezzare la tassa, per esempio, se uno fa veramente una raccolta differenziata ben fatta, perché è ovvio, ha ragione lei, io ti aiuto a fare questo lavoro, è vero che lo facciamo anche per noi stessi, per l'ambiente, è un servizio che facciamo alla comunità e a noi stessi, e ad incassare parte di questi soldi che lei dice sono i comuni, cioè di nuovo i cittadini, quindi non c'è nessun lucro a danno del cittadino. Certo, le aziende che fanno da intermediari, aziende private, incassano, però fanno anche il loro lavoro, che dobbiamo fare? Soprattutto più incassano, più dovrebbero fare lo sconto, nel senso che se si arrivasse a 10 euro al mese sono comunque 120 euro, lei dice di pagarne 1000, però è il 12% comunque. È vero, non è che è un meccanismo che va migliorato, certo, sicuramente. Certo. Comunque, Andrea, non c'è più? No. Pronto, sono qua. Sono qua. Pensavo si fosse autorottamato. Non so se l'abbiamo in parte convinto oppure no. Voleva concludere? Ma voglio concludere che comunque per chi abita in un condominio è un gran disagio, per cui ci sono alcuni aspetti che andrebbero migliorati, i cassonetti nel parcheggio, parti comuni comunque sono soggette a delle problematiche. Io rimango un fautore dei cassonetti interrati, porto un esempio a Imola, città meravigliosa, l'avanguardia sul recupero ecologico, hanno i cassonetti in centro, interrati. Anche Bologna lo ha fatto da poco, sì. Anche Bologna, perfetto. Quindi io del porta a porta non sono un gran fautore, perché comunque è una fatica per il cittadino. Io penso anche, grazie a lei Andrea, che insomma, ogni città poi adotta delle strategie magari diverse a seconda del territorio, la conformazione della storia. Perché magari non puoi farli interrati perché invece hai deciso di fare la metropolitana. Insomma, ad esempio, l'importante poi è raggiungere i risultati. E mi sembra che insomma, i comuni che abbiamo citato, sia Milano ma anche Bologna, c'è stato il caso di Antonello che parlava di questo comune, piccolo comune sardo, forse la raccolta differenziata, ecco, porta a porta va meglio per i comuni piccoli dove è forse più facile mettere in fila, no? Le cose. Vuole leggere qualcosa? Volevo leggere un messaggio che mi fa molto ridere, che dice: le lastre delle radiografie sono molto ricercate dai vigili del fuoco che le usano per aprire le serrature, stanno sparendo. Attenzione. E quelle che hanno le conservano gelosamente. Firmato Giampaolo. Potrebbe molto servire bella, non solo ai vigili del fuoco purtroppo, perché si dice no, che sai che con la lastra si fa scattare la serratura, e comunque mi sembra e non esistono più, perché ormai molto spesso le lastre radiologiche non ti vengono consegnate ma ti vengono messe direttamente su un CD, e quindi tu ti porti a casa il CD e col CD non apri le serrature. Adesso è il momento di un appuntamento che gli ascoltatori di Si Può Fare conoscono normalmente, perché lo abbiamo ospitato alla domenica, adesso lo spostiamo un po' al sabato, così magari se qualcuno non l'aveva mai sentito lo sente adesso. Parliamo dei mestieri del futuro con Massimo Temporelli. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? She said to me, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Ben ritrovato in questo caso al sabato. Massimo Temporelli, presidente di The Fab Lab Make in Milano, un luogo che si trova a Milano in via... Via Santa Marta, in pieno centro Milano, dove cerchiamo di parlare, di portare nella nostra città un po' di futuro. Ma anche un fisico, uno scrittore, un divulgatore, Massimo Temporelli, che ci aiuta così a gettare uno sguardo nel futuro. Io so di cosa vuoi parlare tu oggi, potrei anche dirlo, però ho paura di fare brutta figura, perché l'assemblatore di auto open source, non so proprio di cosa stiamo parlando, Massimo. Come molti dei lavori che abbiamo presentato, sono ancora lavori lontano da diventare realtà, però la cosa che ci piace, no? Che abbiamo sposato entrambi, è l'idea di raccontare il mondo come sarà, non tra tantissimo, tra 10-15 anni, secondo molte ricerche il 50% delle professioni attualmente in voga spariranno, e siccome noi siamo positivi, da Si Può Fare al Fab Lab siamo positivi, l'idea è cosa sostituiremo con questi lavori che spariranno. E soprattutto dobbiamo prepararci, perché spariremo anche noi. Ho come la sensazione che spariranno anche quelli che stanno facendo noi. Lo speaker radiofonico ha una probabilità di estinzione piuttosto bassa, magari un giorno ne parliamo. Ah sì, bello. Dai, rincuoraci. Però ci sarà un'app che prenderà il mio posto di sicuro. Quello di Alessio non lo so, ma il mio è sicuramente sostituibile. Un'app, oddio. Va bene, parliamo un'altra volta. Se invece dovessimo formarci nell'ambito dell'automotive, dell'ingegneria, sì, dell'automotive, quindi delle automobili, una professione che sembra emergere con prepotenza è quella dell'assemblatore delle auto open source. Cioè, ci sono aziende, anche italiane, se stia molto attenti, nel senso che sembra sempre cose che arrivano dall'America. C'è un'azienda che si chiama Open Source Vehicle, italianissima, con ramificazioni in tutto il mondo, ma propone un'auto di nuova generazione, un'auto che hanno definito auto IKEA, e tu andrai al supermercato piuttosto che all'auto officina o forse anche nei nostri Fab Lab a comprare in scatolone. Allora tu comprerai questi kit che poi o ti autoassembli secondo chi ha fondato queste aziende, o secondo me, ma anche secondo le persone con cui parlo del settore, chiami un tecnico. Ci sarà un tecnico, un'autofficina, un fab, la bombara. Come quello che viene a montarti la cucina dell'IKEA, così sì, ti fai montare la macchina. Ma di sicuro, ma io non sono in grado neanche di fare un modellino di un elicottero. Scusa, voi volete montarmi una macchina? No, ma poi scusa, allora, Massimo, non ho capito una cosa. Che senso ha? Cioè, se devo poi chiamare un tecnico per farmi montare la macchina, perché non vado a comprare direttamente la macchina? E poi la vera differenza tra questo, diciamo, è una macchina che vai a comprare dal concessionario e che ti resta l'imballaggio poi e che lo devi, smaltire nei rifiuti. Ovviamente. Allora, due o tre vantaggi. Il primo, cosa significa open source? Open source vuol dire che queste persone solitamente rilasciano tutti i progetti online. Questo vuol dire che ognuno di noi può customizzarsi l'automobile che desidera. Cioè, c'è uno sashi. Scusa, fisso. Customizzarsi, lo dico per gli ultra cinquantenni, la fai come te pare a te. Se vuoi il divano trapuntato al posto dei sedili posteriori, ti metti quello. Sì, o anche la lunghezza, la larghezza, se vuoi più bagagliaio, se vuoi un motore diverso, gli ammortizzatori, dipende da dove vivi. Sì. Però poi ci saranno anche delle regole che sono la legge, nel senso che non credo, certo, che gli autoveicoli possano avere qualunque misura, tipo 46 metri. Infatti i tecnici specializzati nell'assemblaggio di queste macchine non sono le sciure o la persona del posto qualunque, ma coloro che sanno anche di legalità, per cui certo, c'è una macchina che è omologabile. Il vantaggio qual è? È che innanzitutto tu vivi in città diverse, con conformazioni diverse, con necessità diverse, quindi tu puoi scegliere batteria, motore, ammortizzatore, sedile, postura, come vuoi, poi te la porti all'officina e te la fai costruire, o meglio ti mandano i pezzi lì, e questo è un po' quello che succede adesso. Non facciamo pubblicità all'IKEA, cioè se hai una cucina grossa, piccola, una casa con due te la bani, sistemi tutta veramente su misura come vuoi tu, sì. No, il grosso vantaggio della cucina IKEA, fare pubblicità, sì, ma insomma, no, di tutte quelle aziende che producono veramente pezzi super modulari, è che non sei costretto ad adeguare la cucina alla casa, ma veramente è il contrario. Sì, soprattutto è una questione di prezzi, poi, perché certo, è sempre esistito. Infatti, si chiamava falegname quello che faceva la cucina su misura. Sì. Solo che l'IKEA costa un po' ancora, meno. L'altro vantaggio è il prezzo. Sono macchine e automobili che costano sotto i 5.000 euro. Non stiamo parlando di automobili normali, stiamo parlando di quelli che vengono chiamati quadricicli, quindi automobili a bassa velocità, perfetti per il traffico urbano. Quindi immagino al car sharing, banalmente, se fossi un comune italiano potrei appoggiarmi a queste piattaforme per svilupparmi la mia automobile. Ma è vero che una di queste auto è stata assemblata poco fa per la prima volta al mondo, addirittura con pezzi stampati tramite stampante, sì, in 3D, e se non ricordo male c'era di mezzo proprio forse il design italiano. Sì. Quindi noi siamo in pista su questo business, cioè siamo... È quello che cerchiamo di spiegare ai giovani quando vengono nel nostro Fab Lab, è proprio il fatto che l'Italia per la prima volta nella storia è allineata in una rivoluzione industriale, che è quella che stiamo vivendo, che è quella della digital fabrication, perché non prevede grandissimi investimenti. L'Italia è un po' scarsa. Speriamo di non fare però la fine che abbiamo fatto con tante altre storie passate, tipo per esempio il personal computer, che siamo stati tra i primi ad assemblarlo, poi non abbiamo un'azienda italiana che lo fa. Però questo non vorrei fare l'uccello del malaugurio. Un po' più granulare come rivoluzione, cioè, c'è tanta gente che lavora su tanti progetti, e questo mi dà la speranza che difficilmente riusciremo a perdere questa occasione, perché sono tante persone, non c'è l'Olivetti, no? che inventa, sì, il programma 101 e poi morto lui, caduta il management più illuminato, sparisce tutto. Qua c'è proprio una cosa dal basso che sta venendo su con tante iniziative, e ognuno di noi e i giovani soprattutto potranno agganciarsi a questa rivoluzione. Ed è il bello della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Non vedo l'ora di montarmi la mia macchina, lo posso dire, non c'ho manco la patente. Fantastico. Quindi sarà veramente divertente, poi posso metterci tutto il tempo che voglio, perché poi non ce l'ho bisogno, non ho la patente. Grazie Massimo Temporelli, ci sentiamo sabato prossimo. Grazie mille, a presto. Ciao. Ciao, buon sabato. Ci fermiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come riempi bene quei jeans? dei films, coi tacchi quasi galleggi, c'hai dei movimenti che mi stendi. Che cosa fai? Cammini così? E quanto tempo passi dentro quei jeans? Non penso sia ora che, e come mai non vedi lui sti con me? E dove devi andare adesso, dove? E dovunque vai io vengo con te. Allora c'è tempo ancora oggi e domani per aderire alla quarta edizione della settimana del gioco in scatola. C'è scritto tutto sul sito staserasigioca.it e noi ce lo facciamo raccontare da Stefano Perotti, che è l'organizzatore. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Di che si tratta la festa del gioco in scatola? Ludoteche, pub, scuole, oratori, dovunque si può giocare in società, cosa si può fare per aderire? Esattamente, si tratta di una competizione per beneficenza, diciamo, che ogni anno andiamo a promuovere tra i vari comuni italiani. Quest'anno è stata dal 15 al 23 di novembre, quindi abbiamo tempo ancora oggi e domani. E durante questa settimana i comuni sono invitati a organizzare dei momenti di gioco per i propri cittadini, appunto avvalendosi dell'utilizzo di luoghi del comune, ma anche ludoteche, scuole, oratori e così via, con l'obiettivo di accumulare più ore di gioco possibili, perché il comune che riuscirà alla fine di questi ultimi due giorni di competizione a essere davanti a tutti vincerà il titolo di Città del Gioco 2014, ma soprattutto anche un maxi carico di giochi in scatola da devolvere in beneficenza a un'associazione a sua scelta. E questo è molto bello, e questo è molto bello. Chi ha vinto l'anno scorso, tanto per avere un'idea? L'anno scorso ha vinto Palermo, che si è piazzata comodamente davanti a tutti. Quest'anno stiamo battendo ogni record rispetto all'anno scorso. Pensate che siamo già arrivati in 5 giorni di attività a 440 giorni di gioco accumulati. L'anno scorso il record era di 450, quindi ormai ci manca davvero poco per sorpassarlo, visto che abbiamo ancora Stefano, complice la grande crisi e tutta questa disoccupazione che c'è in giro, la gente c'ha un sacco di tempo per giocare, forse. No, comunque mi sembra una bellissima notizia, così. Anche perché ho visto che c'è una statistica molto bella che dice che il 28% dei giovani vorrebbe avere un telecomando magico per spegnere gli smartphone di mamma e papà, di modo che si stia tutti insieme a giocare. E per una volta, visto dall'altra parte, cioè che sono i giovani che dicono, sì, mamma, basta con sto telefonino. Perché alla fine il gioco in scatola è anche la festa della socialità, della famiglia, sì. Allora andate sul sito staserasigioca.it per saperne di più. Io ringrazio Stefano Perotti, siamo in chiusura, grazie per essere stato con noi. Allora diamo solo l'annuncio, vince i biglietti e il catalogo della mostra di Chagall Antonello da Modena, con il suggerimento della raccolta Porta a Porta. Per una volta la Sardegna batte il Nord Italia. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao. Thank you.